La vigilia di Natale. Anche quell'anno era stato fatto un albero di Natale in chiesa. Da tempo avevano spedito a Mary una scatola con i loro regali e la casa era piena di piccoli segreti perché ognuna di loro aveva fatto di nascosto i suoi pacchettini da appendere all'albero. Ma alle 10 cominciò a nevicare. In un primo momento parve che potessero andare lo stesso alla festa in paese. Per tutto il pomeriggio Grace era stata a guardare dalla finestra. Il vento si era smorzato un paio di volte, ma all'ora di cena fischiava di nuovo agli angoli del tetto e l'aria era tutto un turbinio bianco. È troppo rischioso uscire, disse papà. Per il momento il vento era molto forte, ma ancora teso. Come si poteva essere certi, però, che non si mutasse in bufera mentre loro erano in chiesa? Siccome non avevano organizzato nulla per passare la vigilia in casa, si dettero subito da fare. Laura andò in cucina a preparare il popcorn. Per prima cosa mise il bollitore di ghisa a scaldare sulla stufa, dopo aver tolto il coperchio da uno dei fuochi. Ci mise dentro un pugno di sale e quando il bollitore fu rovente, buttò una manciata di chicchi di Gran Turco. Poi, con un cucchiaino dal manico lungo, cominciò a rimescolarli, mentre con l'altra mano teneva il coperchio del bollitore in modo da impedire ai chicchi via via che scoppiavano di saltar fuori. Quando gli scoppiettii finirono, buttò nel bollitore un'altra manciata di chicchi, continuando a mescolare, anche se ora non c'era più bisogno di tenere il coperchio perché i chicchi già scoppiati restavano in superficie, impedendo a quelli ancora interi di saltar fuori quando esplodevano a loro volta. Mamma fece bollire la melassa e quando il popcorn fu pronto, mamma ne rovesciò un po' in un tegame, vi versò sopra un filo di melassa bollente e con le mani imburrate ne fece tante palline. E continuarono così, finché non ebbero una ciotola piena di quelle squisite palline croccanti. Intanto, nell'altra stanza, Carrie e Grace confezionavano dei bei sacchettini rosa con uno scampolo di retino da zanzariera che avevano avanzato dall'estate. Li riempirono con le caramelle che papà aveva portato qualche giorno prima dal paese. Per fortuna, ho pensato che ci avrebbe fatto comodo avere qualche caramella in più, oltre a quelle che avremmo trovato sull'albero, disse congratulandosi con se stesso per la sua lungimiranza. Oh! Esclamò Carrie, ne abbiamo fatto uno in più! Grace ha sbagliato a contare. Non è vero! Strillò Grace. Grace, disse mamma. Non la sto rimbeccando! Strillò di nuovo Grace. Grace, disse papà. Grace stava per scoppiare in lacrime. Non ho contato sbagliato, pa! So contare fino a cinque! Le caramelle bastavano per farne un altro! Stanno così bene in questi sacchettini rosa. È vero? Ed è bello averne uno in più. Non siamo sempre stati così ricchi, disse papà. A Laura venne in mente un Natale quando abitavano sul Verdigris River nel territorio indiano. Quella volta il signor Edwards aveva fatto 80 miglia a piedi per portare le caramelle di Natale a lei e a Mary. Ovunque fosse quella sera, Laura gli augurò in cuor suo di essere felice come erano state loro quel Natale. Penso anche a quell'altra vigilia di Natale sul Plum Creek in Minnesota, quando papà si era perso nella bufera e loro avevano temuto che non tornasse più a casa. Quella volta era sopravvissuto 3 giorni in un buco nella neve, al riparo dell'argine, mangiando le caramelle di Natale che stava portando a casa per loro. Ora invece erano tutti lì, in una bella casa, comoda e calda, con caramelle in abbondanza e tante altre buone cose. Pensò che sarebbe stato bello che con loro ci fosse anche Mary. E cercò di non pensare ad Almanzo. All'inizio le sue lettere erano arrivate molto spesso, poi avevano preso una cadenza regolare, ma ormai erano 3 settimane che non scriveva. Era a casa sua, dove era cresciuto, e certamente aveva intorno i vecchi amici e le ragazze che conosceva un tempo. Mancavano ancora 4 mesi a primavera. E se l'avesse dimenticata? Se avesse rimpianto di averle dato l'anello che le luccicava al dito? Papà intervenne a distrarla dai suoi pensieri. Portami il violino, Laura, facciamo un po' di musica prima di assaggiare queste buone cose. Laura andò a prendere la custodia, lui accordò il violino e impicciò l'archetto. Che cosa suoniamo? Oh, prima la canzone di Mary, disse Laura, magari lei in questo momento ci pensa. Papà posò l'archetto sulle corde e attaccò Mary delle Highlands. La sua voce cantava insieme a quella del violino. Intorno al castello di Montgomery, tra rive, monti e ruscelli argentati, limpida è l'acqua che scorre e che canta. Son verdi i boschi e fioriti i prati. Là, prima che altrove, si ammanta l'estate. E più a lungo conserva il suo riso, poiché là, per l'ultima volta, della mia amata ho visto il sorriso. Poi Poi, senza interrompere la musica, passò direttamente a un'altra canzone, scozzese anche quella. Triste il mio cuore che non so dire, triste il mio cuore di nostalgia. Oh, lunga è la notte, cupo l'inverno, se piange il mio cuore senza allegria. Mamma si dondolava piano sulla sua sedia accanto alla stufa e Carrie e Grace si erano accovacciate sul sedile sotto la finestra. Solo Laura andava qua e là per la stanza, inquieta. Il violino prese a suonare una canzone che raccontava di strade e di viaggi e le fece venire in mente le rose di giugno. Poi attaccò un altro canto ancora e col violino cantava la voce di papà. Quando nelle vaste pianure del cielo rifulgono le stelle nel loro splendore, di miriadi e miriadi una soltanto cattura l'occhio del peccatore. È la guida e la luce che mi conduce, che allevia ogni pena e ogni dolore, e nel fragore della tempesta un porto di pace. Addita al mio cuore. E ora che innanzi non v'è più periglio e la mia nave in porto è arrivata, canto la stella che splende a Betlemme, la stella che chiude la mia giornata. Grace mormorò: La stella cometa! Ora il violino cantava di nuovo da solo e papà piegò la testa come in ascolto. Il vento aumenta, disse: Meno male che siamo rimasti a casa. Poi la musica riprese gioiosa e la voce di papà rideva cantando: Non starla fuori al freddo e al buio, perché indugiare nella tempesta? Entra dentro e chiudi la porta, che qui da noi faremo festa. E se la gente ha da ridire, che dica pure come sia. Tu entra dentro e chiudi la porta, che qui staremo in allegria. Avanti, avanti, la porta è aperta. Laura guardò papà stupefatta, ma lui continuava a cantare a voce sempre più alta: Avanti, avanti, la porta è. E si sentì bussare. Papà fece cenno a Laura di andare ad aprire mentre lui cantava: Avanti, avanti, la porta è aperta, che qui da noi faremo festa. Nell'attimo in cui Laura socchiuse la porta, entrò una gran folata di neve che per un attimo la costrinse a chiudere gli occhi e quando li riaprì, restò senza parole. In mezzo al turbinio della bufera c'era il manzo, tutto imbacuccato. Avanti, gridò papà, entra dentro e chiudi la porta. Poi, con un brivido, ripose il violino nella custodia e andò ad aggiungere carbone nella stufa. Un vento del genere, capace di ghiacciarti fino al midollo, disse: Che ne hai fatti dei cavalli? Sono venuto con Prince, l'ho messo nella stalla vicino a Lady. Rispose al manzo scuotendosi la neve dal pastrano e appendendo il berretto a uno dei corni di bisonte inchiodati alla parete, vicino alla porta, mentre mamma si alzava ad accoglierlo. Laura si era rifugiata in fondo alla stanza, accanto a Carrie e Grace, e quando al manzo guardò verso di loro, Grace disse: Ho fatto un sacchetto di caramelle in più. E io vi ho portato delle arance, disse al manzo prendendo un involto di tasca. Ho anche un pacchetto con sopra scritto il nome di Laura, ma mi sembra che non voglia rivolgermi la parola. Non posso credere che sei tu, mormorò Laura. Avevi detto che tornavi a primavera. Ma poi ho pensato che non mi andava di star via tanto tempo e, dato che mi hai rivolto la parola, eccoti il tuo regalo di Natale. Dai, Charles, disse mamma, mettivi al violino. Carrie e Grace, venite a prendere il popcorn. Laura aprì il pacchettino di Almanzo. Era una scatolina bianca. Sollevò il coperchio e dentro, in un nido di soffice cotone, c'era una spilla d'oro a barretta con incisa sopra una cassettina e accanto, per tutta la lunghezza, un lago e un disegno di erbe e foglie. Oh, che bella! Mormorò Laura. Grazie! Tutto qui il ringraziamento? Disse lui stringendolo a sé. Allora Laura lo baciò e gli mormorò all'orecchio: Sono così felice che sei qui! Papà tornò dalla cucina con una palettata di carbone e mamma gli venne dietro. Carrie portò le palline di popcorn e Grace distribuì un sacchettino di caramelle ciascuno. Mentre sgranocchiavano popcorn e caramelle, Almanzo raccontò che con Royal erano scesi verso il Nebraska, viaggiando tutto il giorno nel vento freddo che soffiava sulla prateria e accampandosi all'aperto la sera in posti remoti, dove non c'erano case né ricoveri di sorta. Intorno. Erano arrivati fino a Omaha, dove avevano visto il bel edificio della sede amministrativa della zona. Di là avevano piegato a est, nello Iowa, dove le strade erano piene di fango e gli agricoltori bruciavano il mais come combustibile perché non riuscivano a venderlo nemmeno a 25 centesimi il sacco. Avevano visto la capitale dello Stato e attraversato fiumi in piena in tutto l'Iowa e nel Missouri, finché si erano trovati al fiume Missouri e là avevano piegato di nuovo verso nord. Così, chiacchierando piacevolmente, passarono la serata finché l'orologio batté mezzanotte. Buon Natale, disse mamma alzandosi. Buon Natale, risposero tutti. Almanzo si mise cappotto, berretto e guanti e uscì nella bufera. Mentre passava sotto la finestra, si sentì fioco nel rumore del vento, il tintinnio dei campanelli della slitta. Li avevi sentiti anche prima? Chiese Laura a papà. Sì, e nessuno è mai stato invitato a entrare tante volte di fila, disse papà. Immagino che non mi sentisse nella tempesta. Su ragazze, disse mamma, se non andate a dormire, Babbo Natale non avrà tempo di riempire le calze. L'indomani avrebbero trovato i doni nelle calze e a pranzo avrebbero festeggiato con un bel pollo ripieno, arrostito, bruno e sugoso, e ci sarebbe stato anche Almanzo con loro, perché mamma lo aveva invitato. Il vento soffiava ancora, ma non si sentivano l'urlo e il ruggito della bufera, e dunque Almanzo sarebbe venuto. Laura, disse Carrie quando spensero il lume in camera, questo è il Natale più bello. Ogni Natale è sempre meglio di quello precedente, vero? Proprio così, disse Laura. Esami di abilitazione. Un giorno di marzo, nel pieno di una tempesta di neve, papà portò Laura a scuola con la slitta, perché quel giorno c'erano gli esami di abilitazione. Non c'era scuola e Carrie e Grace erano rimaste a casa. Era stato bello passare l'inverno in campagna, ma Laura era contenta che ora venisse la primavera. Avvolta nelle coperte sul fieno che fungeva da sedile, ripensava vagamente alle belle domeniche che aveva trascorso placidamente in casa con tutta la famiglia. Almanzo veniva a trovarli, ma non vedeva l'ora che tornasse l'estate con le lunghe gite in calesse nel sole e nel vento. Chissà se Barnum avrebbe ripreso le sue cattive abitudini, dopo essere rimasto fermo tanto a lungo nella stalla. Quando furono quasi a scuola, papà le chiese se era preoccupata per l'esame. Oh no, rispose lei di sotto il velo ghiacciato, sono sicura di passare. Vorrei essere altrettanto sicura di avere un incarico in una scuola. Potresti tornare alla scuola di Perry, disse papà. Sì, ma preferirei avere una classe più numerosa e un salario più alto, disse Laura. Bene, disse papà allegramente, fermando la slitta davanti alla scuola. Il primo ostacolo è l'esame, ed eccoci qua. Il prossimo lo affronterai quando lo incontrerai. Laura entrò arrabbiandosi con se stessa perché si sentiva intimidita dalla presenza di tanti estranei. I posti erano quasi tutti occupati e l'unica persona che conosceva era Florence Wilkins. Quando le toccò la mano per salutarla, la sentì gelata. Florence aveva le labbra bianche dalla tensione e a Laura fece tanta pena che di colpo dimenticò tutta la sua timidezza. «Ho una paura da morire!» mormorò Florence. Le tremava la voce. È tutta gente che ha già insegnato e l'esame sarà difficile, non passerò mai. Ma no, scommetto che anche gli altri hanno paura, disse Laura. Non preoccuparti, passerai di certo. La cosa importante è non farsi prendere dal panico. Hai sempre superato tutte le prove. Suonò il campanello e Laura si mise al lavoro. Florence aveva ragione, i temi erano difficili. Laura ci si mise d'impegno, ma all'intervallo era stanca. A mezzogiorno anche lei cominciò a dubitare che avrebbe passato l'esame, ma continuò imperterrita fino alla fine. La sua ultima prova fu raccolta con tutte le altre e papà venne a prenderla. Non so, pa, disse Laura in risposta alla domanda di papà. Era più difficile di quanto mi aspettassi, ma ho cercato di fare del mio meglio. Beh, nessuno può fare meglio di così, le disse papà. A casa mamma disse che sarebbe passata certamente. Adesso smettila di preoccuparti, non pensarci più finché non ci saranno i risultati. Mamma aveva ragione, ma Laura dovette ripeterselo ogni giorno e più volte al giorno. Andava a dormire dicendosi non preoccuparti e si svegliava pensando oggi magari arriva la lettera. A scuola Florence disse che non c'erano speranze per loro due. Era troppo difficile, saranno passati solo alcuni degli insegnanti più esperti. Passò una settimana e non se ne seppe nulla. Laura dubitava che Almanzo venisse quella domenica perché Royal era a letto con l'influenza e infatti non venne. E nessuna lettera il lunedì, nessuna lettera il martedì. Il vento della primavera nel frattempo aveva sciolto la neve e mercoledì c'era un bel sole tiepido, sicché papà non venne a prenderle. Laura, Carrie e Grace tornarono a casa a piedi. La lettera era lì che l'aspettava. Papà l'aveva trovata quel mattino all'ufficio postale. «Che dice, ma?» gridò Laura, togliendosi il cappotto e attraversando la stanza per andare a prenderla. «Ma Laura!» esclamò mamma stupefatta. «Sai bene che non aprirei mai una lettera indirizzata a un'altra persona!» Laura strappò la busta con dita tremanti e tirò fuori il diploma. Aveva preso l'abilitazione di secondo grado. «Oh, meglio di quanto pensassi!» disse a mamma. «Non speravo niente più del secondo grado!» Ora, se solo avessi la fortuna di trovare la scuola giusta. Fortuna e sfortuna ce le costruiamo da sole, rispose mamma placidamente. Non dubito che avrai il buon posto che ti meriti. Anche Laura non dubitava che avrebbe avuto un buon posto, ma si chiedeva come fare a essere tanto fortunata ad avere proprio il posto che voleva. Non pensò quasi a nient'altro per tutta la sera e ci stava ancora pensando quando Florence, arrivando a scuola, venne subito a cercarla. «Sei passata, Laura?» «Sì, ho preso l'abilitazione di seconda.» «Io non sono passata, perciò non posso insegnare nella nostra scuola», disse Florence. «Ed è appunto questo che volevo dirti. Hai sempre cercato di aiutarmi e io preferirei di gran lunga che fossi tu a insegnare da noi, piuttosto che qualcun altro. Se a te sta bene, mio padre dice che puoi averlo tu quel posto. Sono 3 mesi di lavoro, a cominciare dal 1° aprile. La paga è $30 al mese.» Laura fu così felice che riuscì a rispondere a stento. Sì, certo che mi sta bene. Mio padre dice di passare da lui allora, che ti fanno il contratto. Verrò domani pomeriggio, disse Laura. Grazie, Florence, grazie davvero. Sei sempre stata così gentile con me che mi fa piacere poter fare anch'io qualcosa per te, disse Florence. Laura pensò a quella che aveva detto mamma a proposito di fortuna e sfortuna e si disse: «Mi sa che la maggior parte delle volte la fortuna ce la costruiamo noi stesse, sì, ma senza saperlo.» Fine dei giorni di scuola. Un giorno, alla fine di marzo, Laura impilò i suoi libri sulla lavagnetta e si guardò intorno per l'ultima volta. Non sarebbe più tornata a scuola. Il lunedì successivo avrebbe cominciato a insegnare nella scuola di Wilkins e in autunno lei e Almanzo si sarebbero sposati. Carrie e Grace l'aspettavano di sotto, ma Laura indugiava con una strana sensazione di tristezza addosso. La settimana successiva sarebbero state tutte lì: Ida, Mary Power, Florence. Ma d'ora in poi Carrie e Grace sarebbero venute a scuola da sole. A parte il signor Owen, che era ancora seduto alla cattedra, l'aula ormai era vuota, era ora di andare. Laura prese le sue cose e, avviandosi alla porta, si fermò davanti alla cattedra. «Devo salutarla, signor Owen, perché non verrò più a scuola.» «Ho sentito che hai avuto un incarico di insegnamento. Sentiremo la tua mancanza, ma ci rivedremo il prossimo autunno.» «Era questo che volevo dirle. Non tornerò più a scuola», ripeté Laura. «In autunno mi sposo. La scuola è finita per me.» Il signor Owen balzò in piedi e si mise a camminare su e giù, nervosamente, sulla predella. «Oh, mi dispiace», disse. «Non che tu ti sposi, mi dispiace non averti diplomata questa primavera. Non l'ho fatto perché, per un mio stupido orgoglio, volevo diplomare tutta la classe insieme e qualcuno non era ancora pronto. È stata un'ingiustizia nei tuoi confronti, mi dispiace davvero.» «Oh, non importa», disse Laura. «Mi fa piacere sapere che avrei potuto avere il diploma.» Si strinsero la mano e il signor Owen le augurò ogni bene per il futuro. Mentre scendeva le scale, Laura pensava: «L'ultima volta mette sempre tristezza, ma non c'è ragione. Una fine è sempre anche un inizio di qualcos'altro.» Domenica sera, dopo cena, Almanzo e Laura attraversarono il paese in calesse e puntarono a nord-ovest, verso la concessione dei Wilkins. Erano 3 miglia e mezzo di distanza e Barnum fece tutto il tragitto al passo. La sera andava cedendo alla notte, sulla vasta volta del cielo si accendevano le stelle e la prateria si stendeva immensa e misteriosa. Le ruote scivolavano lievi sulla strada, coperta di erba. Nella quiete profonda, Laura si mise a cantare: «Girano le stelle alte nel cielo, gira la terra sotto di loro, e gira, stridendo, la nostra ruota, se ci mettiamo tutti ad andare. Su via, ragazzi, diamoci dentro. Questa ruota facciamola volare. Se gira e rigira come nel cielo le stelle, la nostra ruota farà faville.» Al manzo scoppiò a ridere. Hai una canzone pronta per ogni occasione, come tuo padre. Questa è una canzone dei Mugnai, ma ci stava con le stelle e le ruote del calesse. Sì, ma c'è dentro una parola sbagliata. Nessuna ruota di mio calesse striderà mai, io le tengo bene ingrassate. Comunque, quando le ruote del calesse avranno fatto avanti e indietro su questa strada per 3 mesi, tu smetterai di insegnare, per buona sorte. Nella buona e nella cattiva sorte, mormorò Laura. Meglio sia buona. Ah, sarà buona per certo, disse Almanzo.